Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, è venerdì. Lo so, è venerdì, però si lavora anche oggi pomeriggio, domani bla bla. Però è venerdì per molti, inizio del fine settimana. Quando sarà finito però giorno di lavoro, non prima. No, certo, questo è chiaro. Allora, oggi 15 aprile, Sant'Abbondio, patrono di Como. Quindi Abbondio, ci risparmiamo. Manzoni, viva Manzoni, d'accordo. Ma però, vuoi mettere altri santi del giorno, tipo San Crescente? Pensa che all'agenzia di entrate c'è viva San Crescente e secondo loro di cognome fa gettito crescente, invece no, San Crescente. Poi c'è San Marone, sì, Marone. Mi risparmio le battute sul plurale dei santi. San Marone, beh, è il santo del governatore della Lombardia, sì, compreso l'invito a non rompere. Però detto questo, poi c'è San Partenio, San Tortario, Pausillipo, poi c'è un Teodoro e poi c'è Paterno. San Paterno, San Paterno, che è bello. Bello San Paterno. Io ne ignoravo l'esistenza. E oggi assassino Abramo Lincoln 1865, ohimè la morte di Totò 1967, e anche quella del 2010 mi di Raimondo Vianello, a cui ero molto ma come no, è attaccato, no, lo so, secondo me è un grandissimo attore, Raimondo e Sanda, veramente grandissimo, sì, soprattutto Raimondo. Soprattutto Raimondo, no, io come sempre tifo i mariti o Burgatta. Ah, va bene. Allora, cari ascoltatori, guarda che arriva già un appello, perché parleremo di canone Rai, come no. Caro Cardinal Giannino, scrive un ascoltatore, dia l'estrema unzione al canone Rai in bolletta. Lo so, però ci chiede di farlo alle 8:40, non ho capito perché. Forse c'è un allineamento astrale particolarmente favorevole, lui ha visto che ci deve essere nell'oroscopo della Rai, che se lo fai alle 8:40 è mortale. Però ragazzi, la battaglia non è finita, per il momento il Consiglio di Stato ci dà ragione. Ma attenzione, attenzione, perché non credo che possiamo dargli l'eterno riposo ancora. Ma no, credo proprio di no, tra poco un ospite ci diranno che... Però la soddisfazione di aver avuto ragione, cari ascoltatori, a segnalarvi fin dall'inizio che era una caterva di problemi l'idea loro, beh, questa c'è, qualcosa serviamo, non inventiamo storie. Va bene, ma vedremo. Però Oscar, dobbiamo riannodare i fili con quello che è successo ieri sì, perché bravo. Ieri, insomma, su questa storia della rumena, possiamo dirlo, per esemplificare, ma poi non fate false questioni. Il fatto che sia rumena, secondo me, gioca un ruolo in questo. La rumena che ha ucciso Vanessa Russo, semi libertà poi rimangiata. Esatto. Ci avevano chiamato tanti ascoltatori, uno arrabbiato anche con te. Ieri è intervenuto il padre di Vanessa Russo dalla Zanzara. Eccomi. E ha detto: ci vuole la pena di morte? Lei è a favore della pena di morte? Sì, io sì, guardi, io sì. Non è cattiveria la mia, Non è cattiveria, è il fatto che è il papà. È il fatto questo, questo è il... E quindi gli riconosciamo, per così dire, il diritto di avere una sfera di espressione, diciamo, più incontrollata e più comprensibile umanamente, mettiamola così. E certo, ma infatti ci aveva chiamato anche Ferdinando da Roma, che ci eravamo tenuti da parte. Ferdinando, l'abbiamo chiamata oggi, il concetto è quello che pensa anche buongiorno. Lei. Buongiorno Ferdinando. Che ci vuole dire? Ciò che volevo dire è che non è questione di pena di morte o meno, oppure del fatto della rumena, è il fatto che noi cittadini vorremmo che se qualcuno uccide per futili motivi, per rubare, non durante una lite, perché può capitare, mostrua di vita mea se tu ti litighi, però se io uccido per rubare, o per futili motivi, o per violenza carnale, non ci debbano essere che dopo un anno, due anni, tre anni, questo me lo vedo in giro. Sì. Perché se me lo vedo in giro, potrei anche essere invogliato a farmi giustizia da solo. Cioè, noi abbiamo un caso di un signore che gli hanno ucciso la moglie e l'assassino continua ad abitare lì vicino, dopo quattro anni esce e lui ma se lo vede al bar tutti i giorni. Cioè, Non ma, guarda, no, ma certo, ma Ferdinando, secondo me, non so come la pensi Oscar, il fatto che ci sia una giustizia percepita come non giusta a volte, certamente può spingere le persone a dire ma allora che succede? Mi devo fare giustizia da me? In che la risposta ovviamente è no, però inquieta un pochettino, no, tutto ciò. Come io capisco il padre che dice sia la però, pena, io lo ucciderei, ma uno Stato non può abbassarsi al livello dell'istinto del padre, no, che vuole farsi no, giustizia. Ma però no? La vicenda dell'assassina di Vanessa Russo, ecco, l'omicidio preterintenzionale, perché parliamo di questo, nasce esattamente da una rete degenerata, cioè da una cosa futile, uno spintone. E quindi visto che il nostro ascoltatore dice beh posso capirlo per quello, esattamente di quello stavamo parlando ieri. Punto numero uno. Punto numero due, da Cesare Beccaria in poi, cioè voglio dire da alcuni secoli, il diritto penale non è più quello dell'occhio per occhio, dente per dente, e tutti gli ascoltatori vi dicono siccome è il mio nome allora deve essere commisurato così perché si deve rendere conto a me, e forse non si rendono conto, l'evoluzione del diritto penale da secoli è proprio per il fatto che non è così, non deve essere così, cioè deve essere in grado di commisurare le pene, la durezza delle pene e la certezza delle pene, che in Italia non c'è, questo è il punto vero, però ad alcuni altri fini che non siano quello retributivo dell'occhio per occhio, dente per dente. Sì. Insomma, abbiamo combattuto tanto, abbiamo avuto l'illuminismo, abbiamo avuto Cesare Beccaria per arrivare a questo, però è una posizione, insomma, le persone invece pensano molto no, ci vorrebbe. No, io penso che ci sia una regressione in atto nel costume nazionale, cioè le reazioni che vengono in questi anni. 10 anni fa non erano così, perché io penso in questo che la politica e il giornalismo abbiano la responsabilità, nel senso che i politici che urlano ogni giorno alla fine creano un'atmosfera di questo tipo e che dicono impicchiamoli tutti, sparate, fatevi giustizia da soli, da una parte, da noi pure anche l'informazione, perché l'informazione spara vicende amplificando particolari eccetera eccetera alla ricerca, sì, per così dire, del colpo emotivo. Alla fine la gente si arrabbia 1000 volte di più. Per dire, ma giusto per una questione di puntualizzazioni, non sono passati 3 anni ed è libera, ne sono passati 9. Non è libera, ma ha una condanna a 16 anni. Si può discutere se sia meno, se sia poco o tanto. Ha avuto un regime di semilibertà. Il massimo della pena edittale per l'omicidio preterintenzionale sono 18 anni, quindi è quasi il massimo della pena edittale che gli hanno dato. Non sono stati, tra virgolette, buoni. Io non so cosa dire. Ieri pomeriggio, parlandone con il presidente delle Camere Penali, ha detto: avete ragione, però mettetevi una mano sulla coscienza anche voi giornalisti, perché voi a volte siete i primi che dimenticate particolari essenziali e alla gente arriva un tale carico di amplificazione che si arrabbia. Noi tra l'altro abbiamo provato anche a cercare il tribunale di sorveglianza, il giudice che ha revocato la semilibertà, ha deciso, come è legittimo e gentilmente, di non intervenire, di non raccontarci il perché e il per come, perché insomma, non è obbligatorio per un giudice intervenire a spiegare, si parla attraverso gli atti, però insomma questo è. Però caro Oscar, ieri tu hai avuto un brivido, lo so, lungo la schiena, ti ha percorso, è il cardinal Giannino. Quasi un orgasmo. Vorrebbe... Quasi, perché un cardinale non... No, quasi, ho detto quasi. Perché vorresti dare l'estrema unzione al canone Rai, come ha detto l'ascoltatore, ma ti presento colui che ti smentirà in diretta. Lo so. Il sottosegretario Antonello Giacomelli, sottosegretario allo sviluppo economico, buongiorno. Che ci ricorderà. Che ti riporterà alla ragione. Che dobbiamo morire, come è giusto. Alla ragione. Sottosegretario, non dica però che è tutto a posto, che questo parere del Consiglio di Stato proprio non serve a nulla. No, direi, vi ha dato una serie di bacchettate abbastanza memorabili. Che dice? Le possiamo vedere insieme le bacchettate? Sì. Ecco, iniziamo col fatto che dice il Consiglio di Stato, sempre con quel bel richiamo alla sobrietà dei toni del giornalismo di cui stavate parlando. Vediamola nel merito. Allora, una delle accuse, adesso non ne potremo elencare tutte, ma cominciamo dal fatto... No, le possiamo elencare, sono poche. Ma in realtà, cioè, se entriamo nei dettagli non troppi, però voglio dire, fermiamoci a alcune questioni di fondo. Primo, dice il Consiglio di Stato che nel testo del decreto mica si capisce troppo bene in realtà chi è soggetto. Cominciamo da un fatto. Dice, lì c'è scritto una delle due identificazioni, quella famiglia anagrafica, ma solo chi è addetto ai lavori di legalese capisce cosa vuol dire. E poi aggiunge, quanto ai requisiti identificativi per fare pagare, anche sul tipo di apparecchio, mica è chiaro cos'è l'apparecchio di ricezione. Esatto, non si capisce cosa si intenda per apparecchio TV. Cominciamo da queste due, sottosegretario. Guardi, quale apparecchio TV e qual è la platea sono gli stessi che erano finora. Noi non abbiamo cambiato questo che è già nella norma di legge. Qual è il tipo d'apparecchio e qual è la platea? Il regolamento, il decreto, non poteva modificarlo. Come si può modificare una norma di legge con un decreto? Siccome nella norma di legge noi questo non lo abbiamo toccato, è già compreso. Il Consiglio di Stato ritiene che si debba ripetere nel decreto, bene, lo ripetiamo. E modificherete così. Perché lei ad esempio ha specificato... No, non è che modificheremo, è già così. Il 6 aprile alla Camera, ho già spiegato questo in aula, c'è la norma che dice che ogni apparecchio che è in grado di ricevere e visualizzare il segnale digitale terrestre, sì, o satellitare, è soggetto al canone. E ho elencato, sono gli apparecchi televisivi che direttamente o tramite decoder possono ricevere e visualizzare il segnale. Quelli non pagano. Sono compresi. Quelli pagano. Sì, come fino ad ora. Certo. Come fino ad ora, non è cambiato niente. Quindi nel caso l'obiezione andava fatta anche negli anni passati. Noi abbiamo semplicemente, per scelta politica, evitato di affrontare quello che già il Consiglio di Stato dice, l'evoluzione tecnologica. Che cosa vuol dire? Che oggi utilizziamo i tablet, gli smartphone, i PC, noi abbiamo detto non pagano tablet, smartphone, PC e ogni altro dispositivo se non è in grado direttamente tramite decoder di ricevere il segnale digitale terrestre. Quindi anche se sono collegati a internet non pagano, rileva solo che siano in grado di ricevere e visualizzare il segnale digitale terrestre. Questo è già così nella norma. Il Consiglio di Stato dice e dobbiamo ripeterlo nel decreto, lo faremo accogliendo... Ma come il Consiglio di Stato dice che voi dovete ripeterlo, non perché sia scemo, ma perché aggiunge, perché c'è... No, perché dice chiaramente perché c'è una sanzione che è cambiata di tipologia, visto che diventa penale fino a 4 anni. Non mi pare un argomento così da trascurare, non le pare? Ma guardi, secondo me lei sta facendo un collegamento improprio. Ah. E, diciamo, il rilievo è, non è chiaro qual è il tipo d'apparecchio, è lo stesso dell'anno scorso. Questa è la risposta. Sì. La sanzione. Non c'è nessun collegamento della sanzione al pagamento del canone. No, però se uno sbaglia a capire... No, non la e metto fa una dichiarazione. No. Ma come non la metto così? No, e fa una dichiarazione sostitutiva di esenzione, virgola, esatto, che a differenza di quella del modulo dell'Agenzia delle Entrate, che come sa meglio di me, per cifre molto più elevate, non ha quella sanzione penale, mentre voi gli avete non messo nessuna, quella. Guardi, non è così. E come non è così? E nel decreto c'è scritto che chi sbaglia. Non voglio interromperle l'orgasmo, però. Non è un orgasmo, il mio compito è ricordare a chi è in ascolto che rischia con quella dichiarazione, se sbaglia a capire, no, una sanzione. Non è così, lei sta dicendo, guardi, mi spiace, mi una dica. Cosa impropria. Dica. Non c'è se sbaglia. Ogni persona può dichiarare sulla sua responsabilità di non avere il possesso di un apparecchio televisivo, sì. Non c'è molto da capire, non è da fare una ricognizione. In caso di autocertificazione falsa, c'è la disciplina generale delle autocertificazioni, che è già in vigore dal 2000, che ha delle sanzioni da una pena pecuniaria fino ai casi più gravi, ma non è questo il caso, alla sanzione del carcere. Ma questa è la disciplina generale. Non è questo il caso, cioè non c'è la sanzione penale? No. Nel senso che abbiamo scritto non c'è il carcere, non c'è il carcere, non vedremo. Guardi, mai uno in no, carcere non per una... con le parole. No, infatti. Il punto non è se uno sbaglia. Lei risponda, c'è la sanzione penale con l'arresto fino a 4 anni? C'è la sanzione generale della dichiarazione falsa delle autocertificazioni. C'è, quindi cari ascoltatori, c'è. C'è. Visto che dice che racconta una forse, cosa per forse poi il sottosegretario, ma non so. Io capisco se capisco che Giannino ha le fasi alterne. Però no, non sono fasi alterne. Prima parlavamo del giornalismo a capire. Lei può dare l'opportunità del pagamento del canone. Esatto. Il giudizio che crede, io lo rispetto, mi piacerebbe aiutare a informare solo per le cose come sono. Esatto. La disciplina sulle dichiarazioni personali esiste già dal 2000. Abbiamo semplicemente detto che l'autocertificazione non è un errore. Il fatto che uno dichiari il falso ha una responsabilità che è già prevista, non l'abbiamo e lei dice no, esatto, non solo per il canone, per qualsiasi tipo di autocertificazione falsa, cioè quella disciplina generale. Però le chiedo, sottosegretario, è normale che una persona che non ha un apparecchio TV debba pagare anche, lo so che il costo per carità è minimo, ma una raccomandata per segnalare entro il 30 aprile di non avere, cioè deve pagare per dire che non deve pagare il canone? Vedremo se su questo si può intervenire. Ora, diciamo, si tratta, come in ogni altro caso, di dichiarare che non ci si trova in quello stato previsto dalla legge. Lo si può fare in molti modi, online o attraverso raccomandata. Vedremo di facilitare in modo da evitare anche questo punto. Cioè, ma, di evitare la raccomandata. Ma se, se si protrae per questo, visto che il decreto andrà corredato di questo. Però scusi, vediamo tutte le bacchettate. Sì. No, io ero interessato alle bacchettate. Per esempio, il Consiglio di Stato mi dice che sul decreto manca il concerto del MEF, del Ministero dell'Economia. Sì. Beh, in questo caso si riferisce al fatto che per il Ministero dell'Economia la firma è del capo dell'ufficio legislativo e non del capo di gabinetto. Ah, ma questa è una sciocchezza, soprattutto vi dice per esempio però, che mancano, ho capito, però intanto per esempio che mancano regole, garanzie precise in merito alla trattazione dei dati che sarà necessario tra nel non è così anche qui. Possiamo spiegarlo agli ascoltatori o che non hanno ecco, allora, siccome i dati verranno trattati e trasportati, per così dire, da chi oggi le ha fino ai gestori delle elettrici che dovranno poi metterli in bolletta, dice il Consiglio di Stato, magari sbaglia, ci dirà lei perché, c'è quindi garanzie sufficienti sulla privacy nel vai e via di tutti questi dati e non ne vediamo, sbagliano perché? Ma intanto perché già stiamo lavorando come con il Consiglio di Stato, con l'autorità garante della privacy, esattamente per valutare tutti questi profili e stiamo attenti, però anche qui il trattamento dei dati avviene per definizione esplicita nella norma in base alla normativa vigente, non è che abbiamo previsto qualcosa di oltre rispetto alle norme e alle possibilità che danno di incrociare i dati, però per scrupolo abbiamo inviato al garante della privacy esattamente tutto il testo in modo da valutare insieme quali avvertenze usare. Per concludere, sottosegretario, perché oggi lei ne parla anche al Corriere. Le bacchettate. Sì. Le bacchettate, beh, cioè, c'è anche il beh, ma le ha fatte lei il Consiglio di Stato. Lei di fronte a tutto sorride. No, dove sono lei? Scusi, mi appello alla sua coscienza il Consiglio di Stato. La mia coscienza professionale è il Consiglio di Stato dice non si capisce chi deve pagare. Non è chiaro, dichiarazione sostitutiva non è chiara. Non gliele stiamo facendo noi le bacchettate, le ha fatte il Consiglio di Stato. Se lei mi dice quali sono, io gliele elenco, lei dice mi scusi però, ma scrivi una raccomandata al Consiglio di Stato. No, a proposito, capisco bene. Per concludere, oggi al Corriere della Sera ha sintetizzato un colloquio con lei dicendo ma ci si dovrebbe concentrare a criticare quelli che evadono il canone della RAI, cioè quel 30% di italiani che non pagano. No, io ho detto semplicemente questo, che riscontro che il livello di critiche più o meno legittime o di attacchi a una modalità per cercare di far pagare tutti e diminuire il costo è straordinario, mentre fino a che c'era il 30% di evasione e ogni anno si aumentava il canone, non c'era nessuno nessuno si rastracciava le vesti. E trovo che per un paese come l'Italia sia un po' curioso. Noi non abbiamo modificato altro se non la modalità di pagamento. Il presupposto è non lo stesso. È vero, la dichiarazione e giuramento non c'era prima. Non è nessun giuramento, è un'autocertificazione. È un'autocertificazione, esattamente. Prevista esattamente da una normativa del 2000. Sì, però prima non c'era nella normativa del canone della RAI. Oh, santo Dio. Però prima sotto non c'era, nel senso che prima era semplicemente una lettera che si inviava a vari destinatari. Vabbè, come si concluderà questa vicenda? Cioè, voi dovrete fare queste modifiche, immagino. È un parere consultivo, quindi possiamo recepirle o non recepirle. Siccome lo recepirete? Certo. Lo recepire. Anche perché non sono modifiche, ripetiamo cose che sono già in norma, ma se viene ritenuto loro però non l'hanno dato, l'hanno sospeso, quindi loro stanno aspettando. Ma è il loro parere? Certo. È un parere. Non blocca alcunché. No, è chiaro, no, questo è chiaro, è bene da chiarire. Come i titoli di ieri, i primi titoli erano bloccato, bocciato, no, è un parere. È un parere. E mi piacerebbe che vedessimo nel merito tutte queste pacchettate che sono rilievi da alcuni punti di vista sorprendenti. Noi recepiremo tutti i suggerimenti per rendere esattamente più facile il percorso della nuova modalità di pagamento. Sottosegretario, noi la ringraziamo e dobbiamo andare in pubblicità, che è il nostro canone. Se non può, è dubbio. Se grazie, buon lavoro. Quello sarebbe un altro argomento interessante. Oh, infatti un'altra volta ne parleremo. Esatto, ne parleremo un'altra volta. Intanto la ringraziamo, Antonello Giacomelli, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, e colui anche identificato come una sorta del padre, cioè colui che mette proprio in primo piano la faccia su questa nuova normativa del canone. Grazie. E dopo la pubblicità avremo il presidente della commissione vigilanza Rai e Fico. Allora, caro Oscar, stiamo parlando del canone Rai. Hai visto? È sorprendente per Giacomelli che il Consiglio di Stato abbia fatto delle obiezioni. Sorprendente. Non è che ci sono delle ragioni. Ha detto è sorprendente. Come dire, ma starà mica dalla parte degli evasori il Consiglio di Stato? No. Come no? L'ha detto prima. Questo no. Però chi obietta sta dalla parte degli evasori. Sorprendente. Non so, vorremmo capire anche tutta questa vicenda canone Rai, come viene vissuta dal presidente della commissione vigilanza Rai, insomma, colui che dovrebbe appunto anche vigilare a tutela anche di tutti gli italiani, a garanzia di tutti. È giusto che paghi chi deve pagare e che sia tutto fatto per bene. Esatto. È Roberto Fico, presidente della commissione del Movimento 5 Stelle, ben ritrovato. L'abbiamo sentita anche settimana scorsa su altre vicende più rinesche, diciamo. Buongiorno Fico, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, questo parere, che è un parere del Consiglio di Stato, come ci ha detto Giacomelli, al quale però il governo si atterrà, no? Facendo delle modifiche. Il parere, vorrei che fosse chiaro a chi ci ascolta, è obbligatorio per legge, perché il decreto sia vigente. Questo per dire, perché giustamente qualcuno ha detto pare che ci inventiamo il canone RAI, nel senso che sembra che non ci sarà più. Infatti, avendolo sospeso il Consiglio di Stato, il governo è obbligato, ne deve tenere conto. Fico, lei che dice? Il primo punto che secondo me va sottolineato è che il governo non è la prima volta che scrive, possiamo dire un po' così, con i piedi leggi e decreti, per andare molto di fretta, ma più per fare sempre annunci e non poi per avere una sostanza formale sui contenuti nel momento in cui vengono emanati leggi e decreti. Questo è il primo punto politico, mi sento di sottolineare, perché non è la prima volta che accade in 2 anni e più una cosa del genere. Il secondo punto è che il Consiglio di Stato fa bene a scrivere ciò che ha scritto, anche perché oltre ai giudizi di merito ci sono anche dei giudizi formali. Per esempio manca il concerto con il Ministero dell'Economia. Nella scrittura di questa del decreto manca il concerto con il Ministero dell'Economia, il che significa che se manca questo passaggio, che è un passaggio previsto dalla legge, qualsiasi cittadino quando dovrà pagare il canone potrà fare ricorso e impugnare, e probabilmente lo vincerà, lasciando così la RAI senza annullo. Infatti qualche deputato ha detto dopo questo parere del Consiglio di sospendere il canone in bolletta. Lei sente di appoggiare questo tipo di battaglia? Loro lo dovranno fare per forza, dovranno per ora sospendere sicuramente almeno la prima rata, se non si uniformano a tutto quello che dice il Consiglio di Stato. Uniformeranno, questo. Ma potranno immagino. Però per uniformarsi. Però la prima rata è a luglio e devono riuscire a uniformarsi perché devono riscrivere una serie di criteri. Ma oltretutto vi voglio dire una cosa in più. In questi mesi, in questo ultimo anno, noi come opposizione non solo abbiamo combattuto anche sulla legge della riforma della governanza della RAI, anche il modo in cui era stato scritto il decreto sul canone, ma il governo non ha in alcun modo ascoltato l'opposizione. E proprio ultimamente noi abbiamo scritto una mozione che andava ad anticipare alcuni punti che oggi scrive il Consiglio di Stato, dicendo: guardate che questa cosa così non la potete fare, dovete specificare come apparecchio, quante volte viene versato questo canone, come viene versato, una serie di... che poi ritrovate nel Consiglio di Stato. Lei ci sta dicendo... Firma di Carla Ruocco. No, ma chiaro, per capire, Fico, ci sta dicendo che c'è il rischio concreto che salti la prima rata anche per una questione di tempi tecnici. Quindi i tempi tecnici, loro devono correre, ma devono uniformare tutto il decreto, lo devono fare bene dal punto di vista sostanziale e in un punto formale, altrimenti si incorre in ricorsi, e Giacomelli non può sminuire così la cosa, perché scrivere in questo modo e andare sempre di fretta per fare annunci e mai lavorare bene nel merito, con il contributo serio che l'opposizione di questo paese, che il Movimento 5 Stelle dà, non si va da nessuna parte. Questo fa male al paese, perché si annunciano le cose, sono fatte male, poi devono essere rifatte e sono anche costi in più per i cittadini. No, perché ricordiamo poi a chi è in ascolto per capire, non è che noi tifiamo per il rinvio, ma siccome dal meccanismo di identificazione migliore dei presupposti per la dichiarazione, autodichiarazione di esenzione, derivano il numero e le identità di coloro che non sono da mettere da parte dei gestori elettrici in bolletta con il canone, deriva tutto da questo, proprio la precisione di questo meccanismo significa tempi più lunghi per poi poterlo fare in maniera tale da avere il tempo utile per la bolletta di luglio. In questo, secondo me, il presidente della commissione di vigilanza ha estremamente ragione nel dire: mancano poche settimane, c'è tutto questo tran tran da fare fino ai gestori elettrici per la bolletta, per evitare ondate di impugnative. Sì, perché non è appunto solo da riscrivere il decreto, ma c'è tutta una procedura. I gestori elettrici dovranno spuntare coloro che mandano le autodichiarazioni, che entro vanno gestite pure aprile, loro, in teoria vanno mandate all'archivio RAI, che ha l'anagrafica di tutti, loro devono spuntarli e consegnarli ai gestori elettrici. Quindi è un percorso di una certa complessità. Il principio, sì, c'è un grande problema che il Consiglio di Stato fa notare, anche su questo sono d'accordo, che è un problema di privacy, perché c'è un'elevata mole di dati che si scambieranno gli enti coinvolti, che sono l'anagrafe tributaria, l'autorità per l'energia elettrica, l'acquirente unico, il Ministero dell'Interno e quindi anche i comuni, le società private, e allora è molto importante tutelare la privacy dei cittadini e in questo caso, con questo decreto scritto dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Giacomelli, non ce n'è traccia del modo in cui si può tutelare la privacy dei cittadini. Lei comunque lei comunque, Fico, difende la validità del canone RAI come principio, perché questo è un altro discorso sul quale Oscar Giannino invece ha dei però ha non molti stiamo dubbi. Parlando di questo no, no, no, oggi chiaro, infatti, non stiamo parlando di questo. Dobbiamo rispondere a una domanda. Nel nostro paese o in Europa serve un servizio pubblico radiotelevisivo? Allora, la mia risposta è sì, perché il servizio pubblico radiotelevisivo può essere considerato come un bene comune, perché è in senso generale l'informazione. Allora, l'informazione non deve essere solo fatta dai privati, ma può essere anche fatta dal pubblico, dallo Stato. Il punto è che deve essere lontana dai partiti, lontana dal potere, da qualsiasi tipo di potere, indipendente, con le persone che vengono assunte per merito, per concorso e che facciano carriera per grandi meriti interni e grandi professionalità. Questo è il punto. Allora, in questo senso il canone deve essere pagato, perché il canone può diventare quel finanziamento diretto dai cittadini alla radiotelevisione, distaccato dal potere politico, in modo che tuteli proprio quei cittadini che spesso il governo e il Parlamento non fa. Questo è il punto, perché un quarto potere è la televisione, quindi ci sono i tre poteri dello Stato e un quarto potere che è la, diciamo in senso più generale, la radiotelevisione. Allora mantenere un pezzo delle grandi informazioni che girano il mondo in mano pubblica, secondo me ha senso. Certo, se manca però, no, chiaro, però se manca tutto quello che è distacco dal potere, distacco dai partiti, eccetera. Io riconosco a Fico che ha fatto la giusta premessa. Qui bisogna capirci cos'è il servizio pubblico. Qui i signori della Leopolda per anni hanno detto che loro, una volta fossero andati al governo, avrebbero ridefinito il servizio pubblico con un grande dibattito. Hanno fatto solo un decreto per cambiare i poteri di governance dell'azienda e poi i canoni in bolletta che saranno 300 milioni in più. Questa è la realtà dei fatti. Non c'è stato il grande confronto pubblico su cos'è il servizio pubblico. Perché io devo accettare senza discutere l'idea del canone in bolletta se è un'azienda di intrattenimento come tutte le altre aziende commerciali e non distingue? E questo è il punto fondamentale. Se partiamo dal presupposto che dice Fico, sì, benissimo, questo è il modo in cui si fa trasparenza. Però, su questa Fico, cosa. Qua abbiamo due minuti per concludere. È inevitabile, anche se sono giorni di grande dolore, di lutto, insomma, abbiamo visto, voi avete perso uno dei due fondatori del Movimento 5 Stelle, però insomma, come si suol dire, show must go on, e quindi si guarda al domani e al Movimento 5 Stelle che sarà. E molti si chiedono per esempio, se ci saranno le elezioni per un leader, oggi Di Maio a Repubblica dice no, quali elezioni, il leader rimane Grillo. Certo, lei adesso ci dirà dobbiamo stare tutti compatti, ma dove va il Movimento 5 Stelle senza Casaleggio? Ciò che voglio dire, prima un pensiero per Gianroberto, perché noi che l'abbiamo conosciuto bene è una persona straordinaria, che non ha mai mollato, ma soprattutto che aveva una visione del futuro che precedeva gli altri di 10 anni. Non, persone come Gianroberto non ce ne sono, e è sempre andata dritta verso l'obiettivo di una società migliore, dove al centro c'era la persona e il bene comune, in un'idea totalmente diversa di società, ed è un patrimonio dell'Italia, Gianroberto Casaleggio. Ieri ai funerali ci sono stati momenti di commozione straordinaria, ma anche momenti di grande forza. Ieri ci siamo visti dopo il funerale, perché per stare un po' tutti insieme, e ci sentivamo molto più determinati, molto più forti, un po' come se davvero la forza di Gianroberto fosse entrata un po' in tutti noi per andare avanti in modo determinato. E i giornali in questi giorni hanno scritto veramente di tutto e di più come non mai, tutto il contrario di tutto, direttorio contro Davide Casaleggio contro direttorio, due del direttorio che dovevano fare una cosa, cioè le posso garantire, glielo firmo, che sono tutte stupidaggini. Fare così il giornalismo un po' significa svilire proprio l'idea di giornalismo. In ogni caso non ci saranno elezioni per online a breve termine. Noi lavoreremo insieme, compatti, e cercheremo di fare quello che stavamo facendo anche il giorno prima della morte di Gianroberto Casaleggio, e quindi portare i nostri temi all'interno dei comuni d'Italia, Napoli, Roma, Torino, Bologna e così via, fare il nostro lavoro in Parlamento. E è chiaro che dovremo tutti lavorare 100 volte di più, perché Gianroberto valeva 100 persone, e ci riorganizzeremo su questo, ma nei principi e nel fondo e nella base le cose non cambiano. Non cambiano. Va bene, la ringraziamo ovviamente per essere stato qui, anche perché, ripeto, io posso capire, Oscar, insomma, non sono giorni facili comunque per parlare, per chi ha perso una persona, punto di riferimento a cui deve tantissimo, esatto. Grazie Roberto Fico, e ci dobbiamo fermare qui, cari ascoltatori. Benissimo, per chi vuole, per me come oggi pomeriggio, domani Conti della Belva, e se no lunedì mattina alle 8:15. Ciao.